La città c'era un gran barlume, digitale facile arrivò col suo lume, per aiutare ogni cittadino nel bisogno. E trovare facile il digitale a ogni sogno. Non più paura della tecnologia strana, ogni dubbio risolto come acqua e fontana. Vieni a scoprire com'è semplice e chiaro, il moderno mondo non è più un riparo. Chiama adesso allo 054 260 3265 senza un atto per formarti nella rete. Servizi online saranno facili come pane e buon vino in lean. Per gli anziani, giovani e chi vuol capire, digitale facile è qui per non far smarrire. Ogni domanda troverà la sua risposta. In questo viaggio nessuno sarà mai perduto. Ogni mano tesa per un aiuto gentile. Non c'è più motivo di avere un cuore trepidante. Digitale facile con noi vicino. Ogni problema sarà solo un ricordo lontano. Chiama adesso allo 0.